Letture di Radio 24. Approvata in Israele una nuova legge per combattere l'anoressia, con la speranza che il provvedimento serva ad esempio anche per altre nazioni. Primo Parlamento al mondo, la Knesset ha approvato una legge per combattere l'anoressia e i disordini alimentari, vietando alle modelle troppo magre di apparire nelle pubblicità. È la prima volta che un governo usa il proprio potere legislativo per intervenire sull'industria della moda, accusata di provocare disordini alimentari, idealizzando una magrezza estrema. Per i promotori della norma, la lotta all'anoressia è come quella contro il fumo. La speranza è che la nuova legge diventi un modello per tutti quei paesi che faticano con la diffusione di anoressia e bulimia, soprattutto tra le giovanissime. In Israele il provvedimento è stato subito ribattezzato la legge Photoshop, perché oltre a vietare l'uso di modelle visibilmente sottopeso per le pubblicità, obbliga le agenzie a indicare l'uso di programmi grafici per modificare le immagini e rendere ancora più magre le modelle. La legge Photoshop chiede a chi lavora nella moda di presentare un certificato medico, non più vecchio di 3 mesi, durante le sedute fotografiche destinate al mercato israeliano, dove si attesta che i modelli non sono denutriti, in base agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'indice di massa corporea, che si calcola come il rapporto del peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza espressa in metri, minimo richiesto dall'OMS per non essere denutriti, è di 18,5 punti. Si spera così di riuscire a limitare, soprattutto tra i più giovani, l'influenza di modelli estetici irreali e patologici nella percezione del corpo, influenza che si ritiene sia una delle cause dell'anoressia nervosa. Non c'è stato un caso particolare che abbia innescato l'iter legislativo. In Israele, come in tutto il mondo occidentale industrializzato, l'anoressia nervosa colpisce per la prima volta soprattutto nella fascia di età fra i 15 e i 30 anni, ma sono stati diagnosticati casi anche fra i bambini e i cinquantenni. Ne è vittima tra lo 0,5 e l'1% della popolazione, le donne in misura 20 volte maggiore degli uomini, mentre si calcola che il numero dei malati si è raddoppiato dagli anni 60 ad oggi e si è in continuo aumento. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Fabio Sciuto «Anoressiche vietate per legge. Così Israele sfida la moda», da La Repubblica del 21 marzo.